Benvenute a tutte e a tutti a questa nuova puntata di Griottosa. Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. Vi proponiamo oggi l'intervista a Felice, che ha un'azienda, un piccolo birrificio artigianale in Basilicata, intervista che trovate anche su Rivista Contadina numero 2 all'interno della rubrica Raccolte e Racconti curata da Gervasio Ungolo, che approfittiamo per ringraziare per averci messo a disposizione questo materiale. Ecco, lascio spazio immediatamente a questa intervista, che è molto bella, interessante e racconta la scelta di una persona, di un giovane, di stare sulla propria terra e il perché, no? Che cosa ci trova e quale valore aggiunto ha il territorio della Basilicata per lui e per le sue produzioni. E quindi, augurandovi buon ascolto, vi lascio all'intervista. Gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento. Caldo quanto sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini. Il termometro è impazzito, caldo quanto a sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Sulle strade non c'è più verde nei giardini e il termometro è impazzito, caldo quanto sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra presto, portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scuro cara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Birra. Allora, mi chiamo Felice Curci, anno 77, quindi quest'anno 47 anni, benedica. E niente, l'azienda che è nata nel 2007, è nata finanziamento, ho partecipato al bando Sviluppo Italia, è nata in dei locali in fitto a San Nicola di Pietragalla. E tutta la storia mia birra nasce un po' anche prima, durante gli anni di università a Milano, dove la birra artigianale era molto più conosciuta, si produceva, c'erano già strutture birrifici artigianali, e nasce proprio durante gli anni dell'università con la festa di primavera, che si faceva all'Università di Agraria di Milano, tutta una festa che incentrata in un giorno dove si devolveva per attività il collettivo, ogni anno decideva a chi dare i soldi. Noi producevamo delle birre così a casa, a casa di un amico, e poi questo mio amico ha aperto il Menaresta a Carate Brianza, un birrificio, e io l'ho aperto giù a Potenza, più o meno negli stessi anni, 2007. Dal 2007 al 2013 ho prodotto a San Nicola e le prime birre erano con il marchio Brant, che in dialetto lucano significa brigante, e ogni birra aveva un nome di un brigante, quindi c'era la Croccola, l'Inconango, la Chitarrid. Volevamo fare pure le quote rosa, ma non ci siamo riusciti, perché dopo nel 2013 ci siamo fermati per varie questioni. Uno, un po' di famiglia, cioè stava nascendo Demetrio, il primo bambino, e ora ce ne sono due. E poi abbiamo fatto un cambio di impianto, di luogo, cioè da San Nicola ci siamo trasferiti qua a Potenza, in una contrada, in una campagna, molto vicino alla città, però siamo... E quindi da qui, quando ho ripreso la produzione nel 2013, il mondo era già tutto cambiato sulla birra artigianale. Molte persone già sapevano gli stili, chiedevano le IPA, si interessavano di che luppolo c'era nella birra. Erano nati nel contempo anche programmi dagli home brewing, cioè quelli che fanno la birra a casa. Magari era un programmatore, aveva fatto un programma super tecnico, utile per l'attività anche artigianale, produttiva, non solo hobbistica di casa. Insomma, tutte queste cose, era proprio un mondo in esplosione. Quindi dal 2013 produciamo qui a Contrada Dragonara, che poi è diventata via Poggio d'Oro. Poi il successivo passo dell'attività è che abbiamo iniziato a collaborare prima insieme con un birrificio di Napoli, Malto Libero, dove un po' si cercavano anche ambienti un po' diversi di commercializzazione, dove trovi un po' più rapporti sociali prima di rapporto economico, quindi più attività collaborative che solo e unicamente di scambio di prodotto, bene e servizi. Da qui questo birrificio di Napoli poi anche chiuso, ci siamo uniti insieme e quindi abbiamo prima creato il marchio Alba Sauder Brewery, Alba perché azienda lucana birra artigianale è sempre stata la ragione sociale dell'attività, e Sauder Brewery Company perché riunisce un po' i birrifici. Però poi dopo è arrivato il Covid, siamo fermati un po'. Non funzionava questa cosa e abbiamo tramutato tutto la nostra parte comunicativa come birrificio lucano, troverete il sito .it, e con il cane diventa il logo e anche quello che sta in tutte le etichette nelle varie forme. Quindi dalla Potenza Meridionale, una birra del territorio, fatta è un Imperial Stout, cioè una nera con alta gradazione Imperial, 8 gradi fa. Però ci stanno come essenze peperone dolce, peperone piccante e finocchietto. Un po' pensare alla salsiccia lucana, quindi che sono gli aromi che si mettono. Naturalmente non abbiamo messo la carne dentro la birra, ma almeno gli aromi. Quindi c'è questa piccantezza, questa balsamicità anche del finocchietto e un po' del peperone dolce, lo spice, la spezia. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous, y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en Skol. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de Potsdam, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou. Mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. La scelta di tornare da Milano in Basilicata, no? Sì. Di questo ritorno normalmente non è un ritorno che fanno un po' tutti i ragazzi che vanno a studiare. Qual è stata? Vari fattori. Uno, perché classe 77, è 30 anni, avevo la libertà. La Basilicata, gli spazi, l'agricoltura, che è il mio settore, no? È proprio la libertà. La mancanza di questa cosa, la mancanza della birra artigianale, pur avendo un sistema produttivo di malto, di produzione di orzo in Basilicata, che è unico in regione. Cioè c'è stata un'altra in Latina, zona Lazio, però di strutture grandi industriali. Poi negli anni sono nate le micromalterie, quindi consorzi che si fanno coltivazione, e anche in Basilicata stanno continuando a creare. C'è a Lucera un'altra micromalteria, a Lavello stanno vedendo. Insomma, comunque siamo dedicati alla cerealicoltura, alla birra e cereale. Quindi questo è stato... E poi la grandezza del territorio e la voglia di anche di... Avere quella libertà di, sì, lavori nel birrificio, però hai il tuo orto, magari degli animaletti, però sono tante le cose che la Basilicata può dare, natura. Che Milano non dava. Certo, sì. E invece, girando qui in azienda, non vedo soltanto birra. In realtà sì. Cosa c'è dietro la birra? Ci sono diverse cose, sia cercare di utilizzare lo spazio del birrificio, partire dalla public house, quindi creare la tap room, un luogo di ritrovo, però da questo luogo di ritrovo sociale cercare di arrivare a coltivare valori che possono essere la mobilità sostenibile, come la ciclofficina, una corretta, l'abbiamo chiamato il valore dell'autodeterminazione alimentare. Cioè qui facciamo dei mercatini, abbiamo fatti in varie formule, stiamo continuando a riproporre, rifare, però cercando di far capire che è importante trovarsi il proprio cibo, che il cibo è salute, il cibo, coltivare il proprio cibo. Scambio di, una delle cose, delle attività che abbiamo fatto, lo scambio di semi. Stiamo parlando di una contrada, tutti quanti hanno un pezzo di terra, però è anche vero che tutti quanti stanno più lavorando come professionisti, quindi non hanno mai il tempo di coltivare. Però non è una questione in effetti di tempo, è più di voglia, forse. Però vabbè, dare degli strumenti, dire esiste, cioè scambiare, mantenere un seme locale del vecchietto che se l'è conservato, sarebbe proprio l'ideale. Quindi comunque dare dei valori, lavorare sui valori. Poi ci sarà una struttura di acrobatica aerea dove si allenano con uno spogliatoio esterno, quindi sono indipendenti dal birrificio. È sempre lo spazio esterno. Abbiamo fatto pure un campeggio di una settimana. È arrivato un mastro della terra cruda e abbiamo costruito un forno in terra cruda all'esterno, impastando la stessa terra del birrificio, del giardino, con la sabbia e paglia. È uscito Con la bello. traduzione africana. Eh sì, vuoto a perdere. Cioè, quindi la sabbia diventa la camera del forno e poi dopo si. Quindi in realtà il birrificio negli anni è diventato anche un centro di ritrovo per la borgata. Sì, questo è proprio ultimamente, è da 2 anni che stiamo lavorando come associazione di quartiere, associazione Poggio d'Oro, che facciamo qui le riunioni del direttivo e ora prossimamente faremo la prima festa del quartiere. È stranissima potenza, ve la racconto un poco. Cioè, questo quartiere, questa borgata, questa contrada è proprio alle porte di tutti. Dove sta la regione, ma stiamo parlando di 1 chilometro, cioè di una strada comoda che si arriva, e centri commerciali ci sono. Però tutti i giorni davanti al birrificio passa la transumanza di un pastore con una centinaia di capi, tra veramente pecore, capre, vacche, cavalli. Una volta, vabbè, si fanno tipo 1 chilometrino dalla sua azienda, vanno verso la parte più meno costruita, cioè sono tutte villette, però vanno verso e lì vanno a pascolare. E una volta, cioè, in periodo d'aprile, ho visto che andavano insieme al gregge anche 3 maialini piccini, piccini. Stupenda sta cosa. Comunque, stando vicinissimo proprio alla città, no? Nel senso E poi c'è sta una chiesetta, una Dragonara, in sé, beh, è una zona un po' di campagna, però di chiesa, perché questi qui era tutta i francescani che avevano i terreni qua storicamente. E quindi questa chiesetta è gestita da preti, però non si è mai creato un centro sociale, un'attività di oratorio. Quindi la contrada è rimasta abbastanza senza una struttura associativa, cioè di comunità, ecco. E mi farebbe piacere nel tempo creare questo nello spazio del birrificio. Divido sempre l'attività dello spazio e spazio esterno, abbastanza grande, sui 2000 metri quadrati, non è esagerato, però vicino alla città si possono creare alcune cose interessanti e carine. Dall'attività birraia, no, l'attività birraia è laboratorio, quindi anche strutturalmente lo spazio esterno può lavorare anche se il birrificio è chiuso, la struttura, perché ha un bagno esterno, ha delle situazioni di appunto la struttura di acrobatica, alcune cose che sono all'esterno. E questo mi farebbe proprio piacere nell'autogestione, no? Lasciare le chiavi, cioè, al responsabile dell'attività del valore e poi insomma, cioè, farlo lavorare, diffondere questa idea ideale. Danza, danza, danza, forte da sta terra, il ritmo che ti sale, il ritmo che ti prende, il suono, il cupa cupa, il suono, il tamburo, canascia lontane, guarda sto futuro, il futuro di dialetto, è la tradizione, cascora rendo sangue, più forte la passione, cagando sto paese, difende sto rione, lontana ripalazzo, il potere del padrone. Sangue Lucano, alla mamma che t'aspetta. cuore allo studente fuori sede. Santa Lucana, all'operai che non ci crede. Santa Lucana, alla mamma che t'aspetta. Santa Lucana, allo sangue che non torna. Quindi il birrificio non è soltanto produzione di birra, no? E di alcol contenuto nella birra, ma è soprattutto produzione di valori. Sì, ho anche ricerca, ad esempio sull'alimentare, una cosa che abbiamo fatto per 2 o 3 volte è lavorare sui fermentati, delle verdure fermentate, che a mio avviso arrivano pure alle bevande fermentate, che non è solo birra, cioè la birra sì, o il vino, bevanda fermentata, però esistono dei fermentati pochissimo alcolici come il kombucha o il kefir d'acqua, che ma io sono quasi sicuro, vedendo l'evoluzione della birra, arriverà lo stesso anche su queste, cioè le troveremo in tutti i bar, perché magari qualcuno non vuole più bere solo alcol, ma e anche le verdure fermentate la stessa identica cosa, cioè la nostra cultura si ferma un po' ai crauti. Vabbè, questo ci tengo proprio a dirlo, perché sono cose proprio innovative che arriveranno in una maniera un po' più divulgativa in un futuro. E il birrificio invece è anche al centro di relazioni con il mondo agricolo regionale, con tante realtà regionali che poi si incontrano qui attraverso il mercato, no? Attraverso lo scambio del cibo. Sì, rete. Una cosa che da quando sono venuto a Potenza, sinceramente, dagli anni di Cancellara, cioè l'ho sempre la rete sud-sud, oppure ci sono state tante attività, gruppo di acquisto, sempre seguiti sia a Matera che a Potenza. È strano che non si riesce mai ad avere un gruppo di acquisto stabile, sempre ci sono degli andamenti che si attivano e poi dopo un anno finiscono. Però cioè, lo scambio, creare la rete, questa è la cosa più che ci interessa e cerchiamo di fare. Poi devo dire un'altra cosa, cioè, ho visto comunque che c'è una classe di età, i ragazzi di tra i 25, 30 anni, 32 anni, che vogliono tornare in Basilicata. Forse è la stessa voglia, cioè, dicevo, della libertà, e vogliono creare agricoltura. E io questa energia al birrificio è stata captata, trovata persone, e vedo che è in continua crescita. Persone che ritornano in luoghi un po' più dove la cultura è ancora cultura contadina è ancora esistente, cioè in effetti qua in Basilicata troviamo ancora la signora che ti dice che fa tutt'oggi, l'anziana che fa tutt'oggi o il maiale o la salsa di pomodoro, e ti dà delle nozioni. In altre regioni, cioè, c'è sempre agricoltura, però è anche vero che la cultura agricola forse sta la cultura agricola tradizionale sta un po' scomparendo, quindi trovare spazi e anche cultura in questo senso la Basilicata un pochetto ci dà qualcosa. Then tutta festa, una guagliona alla finestra, ne guarda e ride sola sola, un musicante suona ancora. Le creature vanno su un ben, le guagliono vanno a ballen, l'organetta smandigiata balla balla sta suonata. Corrite tutto voi guaglioni, corrite tutto voi guaglioni, musicante andà a chiazza e suona solo solo, e accarezza il bottone, e accarezza il bottone, sembra quasi che faccia amore, e sta chiazza quando è bella e quando è bella sta tarantella. Concludiamo così questo ciclo di interviste tratte da Raccolte e Racconti, la rubrica di Gervasio Ungolo all'interno di Rivista Contadina, e desidero quindi salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata e di tempo. Vi ricordo però prima di lasciarci che Terra Liquida, l'associazione che si occupa di portare soccorsi nelle terre alluvionate o comunque turbate dai cataclismi ambientali che stiamo purtroppo vivendo in questi mesi, in questi ultimi anni, stiamo sostenendo assieme a loro l'acquisto di un furgone per appunto attrezzato per il soccorso e le emergenze. Tutte le informazioni le trovate all'interno di furgoneofficina.vado.li, il sito nel quale potete non soltanto approfondire il progetto ma anche eventualmente fare le vostre donazioni. Vi ringrazio quindi, vi saluto e vi auguro buone giornate.